Come rovinare l'amicizia. Leggo nella Bibbia, in Proverbi capitolo 16, versetto 28. L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Vuoi rovinare un'amicizia? Un metodo infallibile consiste nel seminare discordia attraverso i pettegolezzi. Purtroppo funziona anche troppo. Funzionava quando nemmeno esistevano i telefoni e occorreva seminare i pettegolezzi con tanta fatica, avvicinando l'interlocutore a tu per tu. Figuriamoci oggi che oltre al già citato telefono abbiamo a disposizione gli sms, i messaggi di posta elettronica, i forum su internet e ultimo, ma non ultimo, i social networks come Facebook. Anzi, i metodi più moderni, a mio avviso, rischiano di renderci ancora più trasparenti e disinibiti. Vi siete accorti che per scritto con questi moderni mezzi a volte ci permettiamo di fare dei commenti che difficilmente ci permetteremmo di fare a tu per tu, tendendo ad offendere gli altri con più facilità? Anche sul lavoro ho notato che l'avvento della posta elettronica ha favorito il prolungarsi di discussioni che con una riunione a tu per tu si sarebbero risolte molto più velocemente. Oggi è facile essere maldicenti anche per coloro che per loro natura sono timidi, perché è più facile lasciarsi andare nascosti dietro la tastiera di un computer. Inoltre molto spesso su internet si utilizza l'anonimato o falsi profili con i quali pensiamo di poter dire ciò che vogliamo di chiunque senza assumercene neanche la responsabilità. Ammetto che quando ero più giovane, all'inizio dell'era di internet, anche io ho ceduto alla tentazione di partecipare a forum senza utilizzare il mio nome. Ma mi sono accorto che questo mi portava appunto ad essere più disinibito e aggressivo nei confronti degli altri, proprio perché sapevo che bastava disconnettersi e tutto tornava come prima. Ma in realtà non è così. Questo è un grande inganno, perché quando si offende qualcuno o si fanno pettegolezzi nei confronti di terze parti, si fanno sempre danni e il fatto di essere nascosti nell'anonimato ci rende solo più vili e perversi, ma pur sempre responsabili. Questo verso dice che l'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Il maldicente con le sue parole può fare danni durature, mettendo zizzagna e rovinando anche amicizie di vecchia data. Riuscite a pensare a qualcosa di più subdolo e perverso? Mi vergogno per quelle volte in cui io stesso sono stato uno strumento per seminare contese. Credo che sia con le nostre parole che con tutti i mezzi di comunicazione a nostra disposizione dobbiamo cercare di essere prudenti e rispettosi nei confronti del nostro prossimo. Vale la pena rovinare dei rapporti per un post su Facebook? Oppure perché non abbiamo resistito a fare una telefonata del tipo «Ehi, hai sentito cosa ha combinato Tizio o Caio?» Oggi abbiamo molti mezzi per comunicare, ma questo aumenta la nostra responsabilità. Possiamo utilizzare questi mezzi per condividere pensieri utili e incoraggianti e anche per scambiarsi qualche battuta, ma possiamo anche utilizzarli per seminare contese e rovinare amicizie. Avete mai pensato che il maldicente può fare danni solo se trova un orecchio disposto ad ascoltarlo? Allora non dovremmo solo non farla in maniera attiva con la nostra lingua, ma anche cominciare a chiudere le nostre orecchie e magari anche le nostre pagine su internet o sui social network a coloro che si ostinano ad utilizzarle come pattumiera per gettarvi dentro i rifiuti tossici della propria lingua.